GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Emergenza incendi, nuovo rogo scoppiato nella notte a Duino nei pressi del sentiero Rilke. Sul posto sta operando personale di vigili del fuoco forestale e protezione civile, in parte dirottato da Sant'Orligo, dove la situazione dopo le fiamme dei giorni scorsi è sotto controllo, anche se si teme il vento, determinante il ruolo di elicotteri e Canadair. La siccità del Meduna è ormai talmente grave che l'annunciato stop alle irrigazioni è stato anticipato alla mezzanotte di oggi. Da domani quindi i campi di mais e soia che attingevano dal fiume verranno esclusi dal servizio. E proprio a causa della perdurante siccità il settore del florovivaismo è sempre più in crisi. Le piante costano poco, ma avere l'orto non conviene più per le difficoltà a irrigare. Nessuno l'ha uccisa. Per i periti della procura, Liliana Resinovic si sarebbe suicidata, ma il marito non ci crede. Il procuratore capo non commenta e attende la relazione. Furto da 100.000 euro alla Faber di Cividale. Due ladri incappucciati sono fuggiti di notte alla vista della guardia giurata dopo aver trafugato materiale appunto per 100.000 euro. Istituzioni indignate per la richiesta di Varsila alla prefettura di fare sgomberare il blocco dei lavoratori per portare fuori i motori. Così si alimenta la tensione, dice Confindustria. Ad Ogna, nel giorno della festa patronale, è stato inaugurato un negozio polifunzionale altamente tecnologico, fondamentale per i 150 abitanti del piccolo comune della Canal di Ferro. Da oggi al Castello di Miramare è possibile osservare il restauro in diretta di un dipinto che fa parte della quadreria del museo e che fu commissionato da Massimiliano d'Asburgo al pittore austro-ungarico Josef Kiss. Basket, primo giorno di allenamento per la Pallacanestro Trieste, agli ordini del nuovo allenatore Legovic anche due volti nuovi, l'americano AJ Packer e Stefano Bossi. Le 7:20 minuti e 20 secondi, questi titoli, buongiorno da Giorgio Bearz e Lorenzo Gerlinzoni, che condurranno questa prima edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia. In apertura uno sguardo alla situazione meteo con le previsioni per oggi. Il cielo è prevalentemente sereno sulla regione, queste le temperature: a Trieste 23 gradi, il vento soffia 23 km orari da est nord-est, bora con raffiche che hanno raggiunto i 40 km orari nella notte, mare poco mosso con temperatura di 20 gradi e 5 decimi. A Gorizia e Udine 19 gradi, a Pordenone 22, a Tolmezzo 19 gradi, a Foni di Sopra 15, a Tarvisio 9 gradi, a Sappada 12, a Piancavallo 14 gradi. Sul Monte Zoncolan 10 gradi e 5 decimi, sul Monte Lussari 9 gradi. Sulla costa, a Grado e Lignano 22 gradi, con temperatura del mare di 25 gradi. Queste le previsioni dell'ARPA Friuli Venezia Giulia per la giornata di oggi. Di mattino cielo in genere sereno, in giornata arriveranno velature ad alta quota, si avrà variabilità sulla zona montana, sulla costa soffierà bora moderata che di pomeriggio potrebbe girare in brezza sulla fascia lagunare. Ancora in primo piano dunque, per l'ennesima volta in queste giornate d'estate, l'emergenza incendi che assieme alla siccità e alla conseguente crisi idrica di cui parleremo tra poco sta caratterizzando appunto questa torrida estate anche in Friuli Venezia Giulia. E un nuovo incendio è scoppiato nella notte in un'area boschiva del comune di Duina Aurisina lungo il sentiero Rilke, una zona che era già stata interessata dalle fiamme nei giorni scorsi poi domate. Sul posto sta intervenendo una squadra dei vigili del fuoco di Opicina insieme al personale che era dislocato a Prebenico per lo spegnimento del rogo dell'altro giorno a Sant'Orligo della Valle. In arrivo sul posto anche personale della protezione civile e della forestale. E appunto il rogo che da martedì scorso ha interessato il carso italo-sloveno a ridosso del comune di Sant'Orligo sarebbe al momento sotto controllo. I circa 200 abitanti delle frazioni di Prebenico e Crociata che erano stati evacuati sono tornati ieri nelle loro case. Resta comunque molto alta l'attenzione per via della bora che finora non ha riattizzato le fiamme già spente, ma che costituisce sempre un fattore di rischio vista la situazione siccitosa delle aree boschive carsiche. Proprio a causa dell'assenza di precipitazioni anche nelle prossime ore è necessario gettare acqua vicino alle case per mantenere umida la vegetazione. Ancora nella serata di ieri, tra Brevenico e Crociata, erano presenti 20 volontari della Protezione Civile Regionale, oltre al personale del Corpo Forestale e dei Vigili del Fuoco italiani e sloveni. Fino al calar del sole e in attesa di riprendere la loro attività questa mattina, erano attivi anche due elicotteri, un Canadair e due elicotteri sloveni. Il campo base è stato trasferito da San Michele a Brevenico Alto. La Protezione Civile Regionale poi rimasta presente e rimane presente con turni anche notturni per presidiare l'area fino a sabato prossimo. Fondamentale per aver ragione delle fiamme il lavoro dei mezzi aerei, dei pompieri del cielo, insieme a quello degli elicotteri. Interventi coordinati da terra dal Corpo Forestale Regionale. Maurizio Rozza, Corpo Forestale Regionale. Il perimetro non è ancora in sicurezza, in questo momento stiamo lavorando tantissimo per mettere in sicurezza soprattutto il paese, la parte del bordo del paese, e poi ovviamente spegniamo gli ultimi focolai che riusciamo a vedere dall'alto. L'aereo non vede tutti i focolai nel suo avvicinamento, ma noi li vediamo perché gli diamo indicazioni su come operare nel modo migliore. Comunque il loro lavoro è fondamentale e l'interazione diventa sempre più perfetta lavorando con loro. Sono ragazzi veramente eccezionali. I vigili del fuoco sono ancora al lavoro per la bonifica del terreno, dei boschi andati distrutti intorno alla piccola frazione del comune di San Dorligo della Valle. Il bosco dietro paese che è andato a metà distrutto, insomma ci vorranno degli anni, insomma, però fortunatamente non ha attaccato le case. Per individuare altri piccoli focolai viene utilizzato anche un drone con termoscanner. Si vuole scongiurare la possibilità che le fiamme possano riprendere forza. Gli abitanti di Brevenico, oltre un centinaio, hanno visto il fuoco a pochi metri dalle loro case e sono stati invitati a dormire da amici e parenti. Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. E parliamo ora di siccità. Quella del Meduna è ormai talmente grave che l'annunciato stop alle irrigazioni è stato anticipato alla mezzanotte di oggi. Ciò significa che da domani, venerdì, i campi di mais e di soia che attingevano dal fiume verranno esclusi dal servizio. Le colture pluriennali come frutteti e ortaggi riceveranno invece ancora acqua, ma ad orari e turnazioni riviste al ribasso. Inizialmente si ipotizzava di poter prelevare dalle riserve di Redona almeno fino a Ferragosto, ma i dati reali si sono rivelati peggiori di ogni più nera previsione. Da ieri, annunciato il consorzio di bonifica Celina Meduna, l'invaso di tramonti si trova ufficialmente in secca. Ci si deve quindi affidare solamente ai 3 metri cubi d'acqua che il torrente ancora trasporta a valle ogni secondo. E ci avviciniamo a Ferragosto e le prossime saranno ancora giornate calde e senza la previsione di precipitazioni significative. Una perdurante siccità che non provoca solo danni per l'ecosistema, ma anche pesanti riflessi economici e finanziari sull'intero sistema produttivo regionale. E sono pesanti le conseguenze della siccità anche per il settore della floricoltura, un settore in crisi dopo un piccolo boom vissuto nel periodo post-lockdown. In uno storico garden di Udine, specializzato in floricoltura, piante da orto e da giardino, le vendite da luglio sono dimezzate. Pochi si avventurano fuori casa e nessuno pianta più niente con un clima del genere. Luca Rizzardi, titolare del garden. È il primo luglio in 100 anni di attività, è il primo luglio che siamo costretti a tenere chiuso il pomeriggio. È impossibile lavorare sia dentro le serre, che si raggiungono anche i 40 gradi, ma anche all'esterno. Metà introiti, ma la bolletta dell'energia è triplicata e con la siccità il consumo è aumentato per le pompe, bisogna bagnare il doppio. L'ottimismo di un 2021 segnato dalla riscoperta del pollice verde dopo il lockdown ha lasciato il passo all'annata più nera da decenni. I prezzi delle piante sono scesi perché pochi comprano. Non conviene più importare dall'Olanda, uno dei maggiori produttori di piante da vivaio. Per 100 euro di ordine, il trasporto è passato da 75 a 130 euro. Viene a costare praticamente quasi più il trasporto della merce che c'è sopra. Si vendono naturalmente meno semi per le orticole. Non solo siccità, con queste temperature è quasi impossibile produrre ortaggi in modo non professionale. Il consorzio agrario conferma un calo su piantine da trapianto, concimi e trattamenti per orto tra il 15 e il 20%. Sara Bosco, dipendente di una società agricola che vende ortaggi. Nelle ultime 2 settimane c'è stato un incremento nel nostro negozio e ci siamo resi conto che molti cittadini che avevano degli piccoli orti hanno abbandonato tutto anche a causa della siccità, perché hanno dovuto irrigare fino a che potevano, poi la situazione è diventata disastrosa. Se la carne è flagellata dalle limacce, lumaconi che mangiano germogli e foglie, non va meglio sulla linea di costa, dove l'avanzare del cuneo salino sta dimezzando i raccolti. Ma si segnalano ovunque sia problemi parassitari, sia quelli dovuti a stress idrico, come il marciume apicale. Viste queste premesse, c'è già chi sta rinunciando agli ortaggi della stagione autunno-vernina. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. E ora un aggiornamento sul nuovo rogo che è scoppiato nella notte a Duino, nei pressi del sentiero Rilke. Sì, la situazione sarebbe al momento sotto controllo, ce lo ha appena confermato il vice sindaco di Duino Aurisina, Mitja Petelin, che abbiamo raggiunto al telefono e che si trova proprio sul posto in questi minuti. L'area sarebbe appunto stata circoscritta, l'area delle fiamme in particolare. Sono sotto controllo i due fronti principali del fuoco, quindi la situazione al momento non desta particolari preoccupazioni. Anche il fumo è in diminuzione, una operazione insomma di successo, resa tale anche grazie alle linee tagliafuoco che sono state istituite nei giorni scorsi. Naturalmente aggiornamenti su questa situazione nelle prossime edizioni del giornale radio, del telegiornale. Passiamo alla cronaca. Nessuno ha ucciso Liliana Resinovic, trovata morta nel parco di San Giovanni di Trieste lo scorso 5 gennaio in due sacchi neri e con due buste di plastica sulla testa. A dirlo, secondo alcune anticipazioni dell'agenzia ADN Cronos, i consulenti della procura di Trieste, che però non si sbilancia in attesa che la relazione sia depositata. Intanto i familiari e il marito hanno da sempre però escluso l'ipotesi di suicidio della donna. Spunta l'ipotesi di suicidio nel giallo della morte di Liliana Resinovic, ipotesi che dovrebbe essere confermata dalla relazione dei consulenti della Procura di Trieste che indagano sulla 63enne scomparsa il 14 dicembre 2021, il cui corpo è stato ritrovato nel parco di San Giovanni all'interno di due sacchi neri con due buste di plastica intorno al capo non strette. Relazione che deve ancora essere depositata, i cui contenuti sono stati anticipati dall'agenzia di stampa ADN Cronos. Liliana Resinovic sarebbe morta due, massimo tre giorni prima del suo ritrovamento il 5 gennaio scorso, un decesso per asfissia, una morte probabilmente volontaria, confermata dunque l'assenza di droghe, farmaci o segni di violenza. I familiari e il marito Sebastiano Visintin non hanno mai creduto all'ipotesi di suicidio. Non posso immaginare che Liliana si sia tolta la vita per una ragione che comunque non riesco a capire. Viene detto già da parecchio tempo questi sacchi, questa modalità di come è successo. Sembra quasi impossibile che una persona sola sia stata capace di fare tutto questo. Nessun commento da parte del procuratore capo Antonio De Nicolo, che attende che la relazione sia prima depositata, ma se gli elementi emersi fossero confermati, allora la procura potrebbe decidere di archiviare il caso. Restano però tante le incognite, ci si interroga su cosa sia successo nelle due settimane dopo che Liliana era sparita senza cellulare e carte di credito. Gli inquirenti hanno scoperto tracce della colazione consumata poche ore prima della morte. Io ho un buio assoluto del primo e del secondo mese, quasi, con dei flash, con delle cose. Devo ringraziare la squadra mobile di Trieste, che comunque mi è stata vicina. E merito loro, sono riuscito a ricostruire un po' i miei movimenti in quei giorni là. Trieste, Vaciucchi, GR, Friuli Venezia Giulia. Restiamo sulla cronaca. Un operaio è rimasto coinvolto in un grave incidente sul lavoro sabato scorso. L'operaio è dipendente della Vega International, azienda della logistica con sede a Pese di Grozzana nel comune di Sant'Orligo della Valle. L'impresa lavora con l'Interporto di Fernetti. A darne notizia solo ieri è stata l'Unione Sindacale di Base. L'uomo sarebbe rimasto schiacciato durante le operazioni di scarico di alcuni tir da una bisarca, riportando un grave trauma alla testa. È ricoverato all'ospedale di Cattinara in condizioni stabili, ma la prognosi resta riservata. Ed è probabilmente grazie alla tempestività nell'impiego del defibrillatore in dotazione alla Malga Coot in Alta Valresia che si è potuta salvare la vita di un uomo di 66 anni friulano che era andato a far visita al gestore. L'uomo si è improvvisamente accasciato per un malore e il gestore, appartenente al soccorso alpino, dopo aver chiamato il NUE 112, ha iniziato subito a praticargli il massaggio cardiaco e a usare la strumentazione ricevuta in dono lo scorso settembre come presidio sanitario grazie al progetto Comunità e Montagna. Con il pronto intervento del gestore e l'arrivo sul posto un quarto d'ora dopo la chiamata dell'elisoccorso regionale, non è stato necessario far salire fino alla malga le squadre di terra della stazione di Moggio, allertate in un primo tempo assieme alla Guardia di Finanza di Tarvisio, ma poco dopo fermate a valle dalla centrale operativa, dal momento che arrivare fino su via terra comportava una quarantina di minuti totali. L'uomo è stato quindi trasferito in ospedale a Udine. Furto da oltre 100.000 euro alla Faber di Cividale, azienda specializzata nella produzione di bombole a gas. Due ladri nella notte tra martedì e mercoledì scorsi si sono introdotti all'interno dell'azienda, ma hanno fatto perdere le tracce dopo essere stati notati da una delle guardie giurate. Secondo una prima ricostruzione, nella fuga i malviventi si sono impossessati di utensili per la lavorazione di precisione dei metalli per un valore che supera appunto i 100.000 euro. Le indagini sono affidate ai carabinieri. Sono indignate le reazioni delle istituzioni di fronte alla richiesta di Varzila, avanzata alla prefettura, di fare sgomberare il blocco dei lavoratori per permettere ai motori ormai finiti di lasciare lo stabilimento. Così si alimenta la tensione, dice Confindustria, continuando a sostenere la posizione dei lavoratori. Sei propulsori pronti da settimane bloccati dal presidio dei lavoratori dello stabilimento Varzila. Altri sei li intravediamo nel piazzale esterno della controllata Simetale. In questo caso sono persino già imballati e destinati ad essere imbarcati nella prima nave sudcoreana, dicono, in arrivo a giorni, forse proprio sotto Ferragosto. Sono questi 12 pezzi che l'azienda da EV pretende di avere e che hanno spinto il pressing verso la prefettura di Trieste. I sudcoreani e probabilmente anche i finlandesi di Varzila si aspetterebbero un intervento delle autorità per fare in modo che i lavoratori in agitazione consentano l'uscita dei motori dei magazzini. La richiesta di far intervenire le forze dell'ordine viene definita gravissima, in primis dalla Confindustria. Il presidente Michelangelo Agrusti. Sono da parte della fabbrica e quindi dei lavoratori, della città, delle istituzioni, come siamo stati fin dall'inizio, la nostra posizione è ben chiara. Il prefetto, annunziato Vardè, prende tempo prima di fare dichiarazioni vista la delicatezza della situazione. L'azienda da noi contattata sceglie per il momento il no comment. Responsabile e pacata è invece la reazione dei lavoratori. No, non vogliamo lo scontro, noi cerchiamo di essere più democratici possibile, sperando che non succeda niente, ecco, che non ci siano forzature da ambo i lati. Ecco. Se ci fosse una forzatura del blocco, come reagireste? Deve essere una cosa molto... molto difficile fare una cosa del genere, a forzare o dare conto delle forze dell'ordine, quindi vedremo come andrà a finire. Parlando con loro percepiamo come l'intera città sia dalla loro parte. I cittadini in modo spontaneo portano casse d'acqua e spesa, i ristoranti gratis, il pranzo della domenica. E c'è chi tra i lavoratori continua il proprio dovere nei confronti dell'azienda, persino protestando sotto il gazebo. Io sono in smart working e ho la possibilità di lavorare sia dal mio ufficio, sia da casa oppure dal presidio. Trieste, Navitaliani TGR, Friuli Venezia Giulia. PMP Group, azienda di Coseano impegnata nella produzione di sistemi integrati di trasmissione per mezzi industriali e agricoli attraverso collaborazioni attuate con scuole e università, intende trovare 250 lavoratori da assumere nello stabilimento friulano nei prossimi 3 anni, passando quindi da 450 a 700 dipendenti. Tra le collaborazioni attivate anche una con l'Istituto Linussio di Codroipo, dove è stata installata un'isola robotica didattica. Alla maggior parte degli studenti, sia delle scuole superiori sia dell'università, ospitati per un periodo di alternanza scuola-lavoro o per tirocini, alla fine verrà fatta una proposta di assunzione. E ora i dati sui contagi da coronavirus: sono 956 i nuovi casi registrati su 5.703 tamponi, per un tasso di positività che è del 17%. Cala ancora l'incidenza settimanale a quota 500 nuovi casi ogni 100.000 abitanti. Scende anche il numero dei ricoverati in ospedale, 3 in terapia intensiva, 1 in meno rispetto a martedì, 243 in altri reparti, meno 4 rispetto al giorno prima, e si registra inoltre un decesso. Per quanto riguarda il virus West Nile, è stato scoperto in ospedale a Pordenone il 5° caso. Per il responsabile della struttura di infettivologia dell'azienda sanitaria, Massimo Crapis, ci sono anche altri 2 o 3 casi sospetti per i quali sono stati disposti gli approfondimenti del caso. Dopo la pubblicazione sul BUR è ufficiale il rifinanziamento di 800.000 euro e la proroga da parte della Regione Friuli Venezia Giulia delle USCA, unità speciali di continuità assistenziale, fino al 31 dicembre, con lo stesso trattamento economico, 40 euro l'ora, per i medici che vi opereranno e che erano in attesa di notizie dopo il termine del 30 giugno. Soddisfazione per l'esito della trattativa è stata espressa in una nota da Fernando Agrusti, segretario regionale della FIMG, Federazione Italiana Medici di Medicina Generale, maggiore sindacato nazionale del settore che, in Friuli Venezia Giulia, conta più di 300 iscritti. Con l'assestamento di bilancio 2022 è entrata in vigore la legge regionale che all'articolo 6 riferisce sui contributi in capo al CONI Friuli Venezia Giulia. Fra questi ci sono anche 350.000 euro per le società di vertice, 1.300.000 euro a compensare l'incremento dei costi energetici degli impianti sportivi comunali dati in gestione alle società sportive delle federazioni e 180.000 euro per progetti di ripartenza dell'attività giovanile. Rifinanziato anche il progetto che consente di sostenere l'educazione motoria nelle scuole elementari e anche nella terza dell'asilo. Sono in via di pubblicazione sul sito dell'ufficio scolastico regionale gli avvisi per la scelta delle sedi per le assunzioni a tempo indeterminato per il personale. Si tratta di 200 nomine. La procedura si svolgerà online dal 16 al 18 agosto. Sono anche in arrivo nei prossimi giorni 20 nomine di ruolo di dirigenti scolastici. La FLC CGL lamenta la ristrettezza dei tempi per le scelte. Un'altra notizia dal mondo della scuola, dei 2 miliardi di euro per progetti di innovazione didattica previsti dal PNRR, 33 milioni saranno destinati alle scuole del Friuli Venezia Giulia. Siamo all'inflazione, sale il costo della vita con un aumento dei prezzi che è stato a Trieste nel luglio di quest'anno del 0,5% in più rispetto al mese precedente, giugno 2022. E del più 8,5% rispetto a luglio 2021. A Udine un aumento mensile dello 0,4% e annuale del 7,8%. A Donia, nel giorno della festa patronale, è stato inaugurato un negozio polifunzionale altamente tecnologico, fondamentale per i 150 abitanti del piccolo comune del Canal del Ferro. È uno dei primi negozi polifunzionali con modalità 4.0 della montagna friulana, nel più piccolo comune della Val Canale Canal del Ferro. Siamo a Donia, località all'imbocco della valle medesima dominata dal gruppo del Montasio, 152 residenti che ora possono contare su un punto vendita altamente tecnologico aperto tutto il giorno. Vi si trovano tutti i prodotti necessari per l'alimentazione e non solo. Una manna per gli abitanti dopo che alcuni anni fa erano stati chiusi gli ultimi negozi. Fa ritorno un servizio di base tanto atteso grazie ad un bando comunale finanziato con fondi ministeriali di coesione a cui ha risposto positivamente una società privata, Rossella Pin, gestore del negozio polifunzionale di Donia. L'idea che abbiamo avuto è di fare qualcosa che avesse uno sguardo verso il passato ma anche uno sguardo verso il futuro, quindi la classica bottega in una chiave però 4.0, innovativa, automatizzata. Soddisfatti gli abitanti che così potranno evitare di spostarsi nelle località limitrofe per gli acquisti di prima necessità. Da quanto tempo aspettavate un negozio qui a Donia? Beh, da almeno 5 anni, da quando la signora Marcon ha chiuso l'esercizio, forse sono passati 5 anni, e da allora non c'era più niente. Il negozio era più che necessario, perché sono anni che non abbiamo negozio. Io sono entusiasta perché ci voleva poi l'aiuto. Ma la località si rifà il trucco anche con la nuova piazza centrale, intitolata al celebre pittore Fred Pittino, nativo di Donia. Un anfiteatro con al centro una scultura dell'artista messicana Gabriella Salinas, un restyling fortemente voluto dall'amministrazione comunale di Donia, il sindaco Simone Peruzzi. Segnale che Donia può guardare con rinnovata fiducia al futuro e soprattutto dare lo spirito per nuove attività imprenditoriali, nuova crescita e nuova innovazione in ambito montano. Donia, Andrea Rinaldi, TGR, Friuli Venezia Giulia. Da quest'oggi al Castello di Miramare è possibile osservare il restauro in diretta di un dipinto che fa parte della quadreria del Museo di Miramare e che fu commissionato da Massimiliano d'Asburgo al pittore austro-ungarico Josef Kriss. Si tratta di un ritratto dell'imperatore Francesco I, solitamente esposto all'interno della Sala del Trono, e a eseguire i lavori davanti al pubblico in visita al Castello di Miramare durante il consueto orario di apertura sarà la restauratrice Ginevra Pignagnoli, a cui abbiamo chiesto in quali condizioni si trova oggi il dipinto e in che cosa consisterà questo restauro. Abbiamo già fatto un sopralluogo e abbiamo visto che è stata sottoposta a un restauro negli anni 70 del secolo scorso. lo stato di conservazione è discreto, però ci sono dei sollevamenti della pellicola pittorica. Questo vuol dire che dalla tela si staccano delle piccole porzioni di colore che a lungo tempo poi cadono e lasciano delle mancanze. Noi faremo il fissaggio di questi sollevamenti, questo è principalmente quello, e verranno fatte delle iniezioni locali di adesivo idoneo, faremo delle prove prima per stabilire come la metodologia, diciamo. Nell'occasione verrà anche pulita la superficie pittorica, si chiama pulitura superficiale nell'ambito di un restauro appunto manutentivo come questo, e verrà tolto lo sporco ambientale con una spolveratura, un eventuale impiego di soluzioni acquose nel rispetto della verniciatura finale che è attualmente presente sul quadro. Ecco, queste sono tutte le fasi che quindi si potranno vedere nel corso di queste giornate in cui lei restaura il ritratto di Francesco I. Qual è, secondo lei, il valore di portare al pubblico questo tipo di attività che di solito invece avvengono dietro le quinte? Nel caso specifico abbiamo deciso insieme alla direzione di farlo sul posto, perché per il quadro è un'operazione molto meno traumatica che un trasporto in laboratorio con relativa, anche perché è di una certa dimensione e proprio per la sua delicatezza le facciamo subire il minor stress possibile, insomma, scegliendo questo tipo di operazione lì. Poi dopo è chiaro che è anche un'operazione che si può vedere ed può essere interessante per i visitatori, naturalmente, però principalmente abbiamo pensato all'opportunità per il dipinto. Siamo allo Sport Calcio, prosegue la preparazione dell'Udinese in vista del debutto in campionato in programma sabato alle 18.30 contro i campioni d'Italia del Milan a San Siro. Ad arbitrare il match sarà Livio Marinelli della sezione di Tivoli. Per i bianconeri di Sottil, seduta pomeridiana con esercitazioni tecnico-tattiche sui campi del Bruseschi. In chiusura anche una partita tutto campo ed entrato regolarmente in gruppo Wallace. Basket, primo giorno di allenamento al Palarubini per la Pallacanestro Trieste, agli ordini del nuovo capo allenatore Marco Legovic, anche due volti nuovi, l'americano AJ Packer e Stefano Bossi. Gli altri due acquisti americani, Davis e Bartley, hanno problemi di visto e si uniranno al gruppo nei prossimi giorni. Dopo un nuovo allenamento a porte chiuse, la squadra si trasferirà nelle strutture di Laško in Slovenia per proseguire la preparazione. Sono previsti in totale 8 match precampionato, tra cui il torneo di Udine il 2-3-7 settembre e due amichevoli internazionali al Pararubini il 9 e 10 settembre. La stagione partirà il 2 ottobre con l'esordio casalingo in campionato contro Pesaro. Ma sentiamo l'intervista all'allenatore dei Giuliani, Legovic. Com'è il primo giorno da capo allenatore di una squadra di Serie 1 a 29 anni? Sicuramente entusiasmante per le sensazioni che ho io, le sensazioni che abbiamo condiviso con lo staff, ma anche per le risposte che ho avuto dai ragazzi, non solo oggi in allenamento, ma abbiamo fatto dei colloqui individuali. Vedo grande condivisione di obiettivi, vedo grande motivazione, vedo una squadra che ha già capito quello che dovremmo andare a fare, quantomeno sul lato dell'atteggiamento. E questo è il primo passo che mi porto a casa dal mio primo giorno. In campo che squadra vorresti vedere? Vorrei vedere una squadra intensa, una squadra che si spende, una squadra pronta a sbagliare ma a rimediare un errore, una squadra che non si scoraggi alla prima difficoltà. E poi una squadra che corra, una squadra che faccia volare la palla, che vada in transizione in attacco con grande ritmo. E questo, noi dobbiamo partire da questo. Mancano ancora due pedine per completare la squadra. Il mercato è molto difficile e il budget è quello che è. Come pensate di muovervi? Sicuramente il mercato in un momento particolare dove non è facile andare a colpire ed affondare per chiudere i profili che sono rimasti. Noi stiamo monitorando la situazione e capendo ed essendo pronti anche a cambiare strategia nel momento in cui un obiettivo dovesse fallire e cambiare gli equilibri della squadra. Sicuramente sarà una scelta in uno di due profili, una sicurezza, nell'altro saremo pronti anche a fare una scommessa, certo andando sempre a pensare alla situazione migliore globale della squadra. Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia. E alle 7.47 minuti in questo istante cominciamo la rassegna stampa di oggi dalla prima pagina del Piccolo, edizione di Trieste. La crisi industriale, Edison annuncia a Tirso il taglio dell'elettricità, respinto il piano per ripianare i debiti, scadenza fissata il 1 settembre, sindacati in allarme, rischio per 270 lavoratori. Attesa e rabbia ai cancelli, le voci dei dipendenti Varsila dopo l'ultima prova di forza annunciata dalla multinazionale. Vogliono spostare i motori? Noi saremo pronti, e c'è chi non teme di prendersi una denuncia. In taglio alto gli incendi, il liquido rosso lanciato dai Canadair contro il fuoco. Domate le fiamme, rientrano a casa i 200 sfollati, ma con il vento la tensione non deve mai calare. Di spalla, largo Granatieri riservato ai consiglieri dal lunedì al venerdì, estesi gli orari in cui i cittadini non possono accedere all'area di parcheggio gratuito dietro al municipio. E poi l'infortunio sul lavoro dell'operaio di 23 anni in prognosi riservata, di cui abbiamo riferito prima. La perizia su Liliana alimenta i dubbi. Il caso non va chiuso, a dirlo in un'intervista, è la criminologa Roberta Bruzzone. A fondo pagina, le bici e i campioni, quando l'arte sale sulle due ruote. Da una corsa in bicicletta è nata la più grande collezione di manifesti pubblicitari di provenienza privata al mondo, la collezione Salce, che ha di recente trovato la sua sede definitiva a Treviso. Il Messaggero Veneto apre sul caso del maxi buco che ha coinvolto la società finanziaria trevigiana New Financial Technology, specializzata in criptovalute. Tra gli investitori ci sono anche molti friulani che rischiano di perdere decine di migliaia di euro e si stanno rivolgendo alle associazioni di tutela dei risparmiatori. Poi la cronaca locale con due incidenti a Flaibano: un uomo investe la moglie mentre fa manovra in retromarcia sullo scivolo del garage di casa, la donna non sarebbe grave. A Talmassons invece è in condizioni critiche un 44enne di Castions di strada, finito in un fosso e poi contro un muretto mentre percorreva la Napoleonica. L'uomo è ricoverato in terapia intensiva all'ospedale di Udine. Il capocronaca di Udine parla dei lavori di costruzione della nuova scuola di via Aspromonte, un progetto da 4,8 milioni che ospiterà 700 studenti. Candidature, la rivolta dei sindaci, titola invece il Gazzettino del Friuli. Chi vuole correre per le regionali dovrà dimettersi dal comune 90 giorni prima. Il 28 luglio è scaduta invece la data per presentarsi alle politiche. Una quindicina di sindaci potrebbe lasciare l'incarico prima del tempo. In Vallaresia la ex provinciale 42 sarà riaperta solo a ottobre. Il turismo torna a trainare e boom di presenze a Lignano, più 21,5%, un vero record. Dal piccolo edizione di Gorizia e Monfalcone, l'andamento demografico a Monfalcone cresce, si avvicina a quota 30.000 residenti. Determinanti i continui arrivi di cittadini stranieri. Bengalesi in testa lo scorso anno ad iscriversi all'anagrafe sono stati 473 nuovi italiani. Di spalla sport e convegni per rivitalizzare il polo fieristico vuoto. Campus scolastico, il sindaco Ziberna rassicura i presidi più scettici, disegni in stile manga sugli edifici di Turiaco, capitale dei murales, e infine a fondo pagina il Festival del Folklore che festeggia 50 anni con 9 gruppi in parata. Il Gazzettino di Pordenone titola sempre sulla politica e il nodo candidature dei sindaci. Anche qui poi troviamo il boom del turismo con una fotonotizia: mare e montagna, estate da record. A Sacile l'estate fa aprire i lavori nelle scuole. Poi la cronaca con la cattura di uno dei malviventi che aveva tentato di svaligiare una villa a Spilimbergo. L'uomo era stato scoperto dal padrone di casa. Nella fuga ha perso il cappello che ha permesso agli investigatori di risalire a lui tramite il DNA. Quindi la siccità con lo stop della prossima mezzanotte alle irrigazioni con le acque del Meduna, ormai in secca, e in secca è anche il laghetto di Savorgnano a San Vito al Tagliamento, messi in salvo tutti i pesci del bacino. Sul Messaggero Veneto di Pordenone ancora il caso New Financial Technology, poi la protesta degli ambulanti del mercato di Pordenone contro la direttiva Bolkestein sulla concorrenza e l'aumento dei controlli contro l'abbandono dei rifiuti nei magredi. Infine la scuola tecnologica, 8,4 milioni di euro dal PNRR per tecnologizzare gli istituti del Friuli occidentale. Alcuni appuntamenti di oggi: la musica senza confini della Gustav Mahler e Jugendorchester arriva in Friuli Venezia Giulia. 110 musicisti, tutti tra i 18 e i 26 anni, da 18 paesi diversi europei, diretti dal giovane e pluripremiato direttore d'orchestra austriaco Tobias Fogerer, propongono una selezione di alcune tra le più celebri pagine della letteratura sinfonica di tutti i tempi. La Sinfonia numero 40 in Sol minore K550 di Mozart e la Suite per orchestra da archi di Leos Janacek. Questa sera alle 21 in piazzetta Pescheria a Pordenone, poi domani al Teatro Verdi di Gorizia e infine sabato al Duomo di Gemona. Per gli incontri con l'autore con il vino questa sera c'è il giornalista friulano Toni Capuozzo, che presenta il suo ultimo libro Balcania, un viaggio sul filo dei ricordi tra i conflitti che hanno insanguinato la ex Jugoslavia. Appuntamento al Palapinetta nel Parco del Mare a Lignano, ore 18:30. La musica swing, protagonista assoluta del concerto organizzato per la rassegna internazionale Nei suoni dei luoghi a Villa di Toppo Florio a Butrio, di scena il Gorni Kramer Quartet, che presenta il progetto Swing All Around alle 21. A Cividale proseguono gli incontri di musica da camera, questa sera concerto col violinista olandese Daniel Rowald, che si esibisce in prima mondiale su una composizione del musicista lettone Peterin Vasks intitolata Sonata Estiva, ore 21 al Monastero di Santa Maria in Valle. Radio Rai per i Friuli Venezia Giulia andrà in onda su questa rete dopo il GR1 delle 11 con la presentazione dei programmi regionali e le anticipazioni del giornale radio alle 11:10, la presentazione di un classico della letteratura friulana del secondo Novecento ad opera di Don Giuseppe Marchetti. Seguirà alle 11:19 circa Vintage. I programmi regionali torneranno poi alle 14. Prima di chiudere, un aggiornamento sul nuovo incendio che è scoppiato nella notte in un'area boschiva del comune di Duino Aurisina. L'incendio è sotto controllo, arriva un aggiornamento della Protezione Civile Regionale. L'incendio boschivo è scoppiato di fronte al supermercato, si tratta di un incendio di sottobosco che, lo ripetiamo, è sotto controllo in questo momento. Sul posto sono operativi i vigili del fuoco di Gorizia con in arrivo il corpo forestale regionale, i volontari della protezione civile di Duino e Monfalcone, è stato attivato l'elicottero della protezione civile regionale. Ripetiamo, l'incendio è sotto controllo. Ulteriori aggiornamenti su questo episodio, questo ennesimo incendio scoppiato in regione, nelle prossime edizioni del giornale radio, la prossima alle 12:30. È tutto per questa edizione, che è stata redatta e condotta da Lorenzo Gherinzoni e Giorgio Berz, con la collaborazione tecnica di Vassia, Cris Mancic e Viola Romanesa. Collaborato in redazione Daniela Sossi. Appuntamento alle 12:30. A tutti voi l'augurio di una buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.